Ciao, siamo Gianluca, Roberta. Alessandro. Siamo tre coinquilini di base a Bologna e in questi giorni da noia da quarantena abbiamo ideato questo progetto che si chiama Quarantena Documentario Collettivo. È un progetto nato letteralmente tra le mura di casa e negli ultimi giorni ci siamo ritrovati spesso a condividere riflessioni su questo periodo storico assurdo che stiamo vivendo. Inizialmente volevamo fare un documentario classico. Ma vista l'impossibilità di uscire di casa per effettuare riprese e le interviste, stavamo per gettare la spugna fin quando non mi ritorna in mente Italina Day di Gabriele Salvatores. Così nasce l'idea quindi di raccogliere i video direttamente dagli abitanti sul territorio italiano, che noi poi monteremo in un documentario. A differenza di Salvatores, però, che aveva limitato le riprese nell'arco di 24 ore, Quarantena è esteso a tutto il periodo di reclusione imposto dal governo. Vorremmo raccogliere le esperienze di quante più persone possibili. Chiediamo quindi a tutti quelli che vogliono partecipare di mandarci dei video che possano esprimere la loro quotidianità. Quindi cosa state facendo, quali sono i vostri pensieri, le vostre sensazioni, le emozioni. Considerando che il coronavirus non è soltanto una malattia, ma è un fenomeno pervasivo, no? Che altera la capacità di intendere quello che abbiamo definito come normalità, salute, libertà individuale, pericolo e tanto altro. Il documentario non sarà quindi un racconto a livello medico, ma l'obiettivo è di raccontare come le persone reagiscono nei modi più svariati alla vita di reclusione forzata. Parlando invece della parte un po' più tecnica, vi volevo chiedere se ci sono delle indicazioni o delle linee guida rispetto a come dovrebbe essere registrato il materiale che poi le persone vi manderanno da casa e anche se avete già ricevuto qualche video, qualche spunto, se avete un'idea, diciamo, di come potrebbe essere il risultato finale, se potete iniziare a raccontarci qualcosa. Essendo il progetto rivolto a tutti e anche e soprattutto ai non esperti nel settore cinematografico, qualunque dispositivo di ripresa può andare bene, purché le riprese siano in orizzontale, perché ricordiamo che il formato cinematografico è orizzontale, a differenza di quello verticale dei social. E abbiamo pubblicato da pochissimo il progetto, quindi per ora abbiamo ancora poco materiale, alcune canzoni, una lezione di tennis online, un'improvvisazione teatrale, ragazzi che si intrattengono con giochi, quindi prevedere da ora il risultato finale è veramente difficile, visto che tutto si baserà sul materiale che riceveremo. L'idea comunque è di mostrare a 360 gradi questo spaccato di storia, visto con gli occhi, ascoltato con le parole di chi lo sta vivendo in prima persona. Parlando invece di tempistiche, che è un po' un tema difficile, qualsiasi sia l'argomento in questo momento, però vi volevo chiedere se vi siete già dati una scadenza, quindi se c'è un limite di tempo per mandarvi il materiale e anche poi come vi immaginate la distribuzione di questo documentario. La scadenza che ci siamo imposti per la ricezione del materiale è il 4 aprile, ma potrà variare in base alle scelte del governo, ovviamente. Una volta che tutti saranno liberi, noi continueremo la nostra reclusione per montare il documentario, che verrà poi pubblicato online, ma siamo aperti se qualunque emittente televisiva si dovesse mostrare interessata, saremo ben felici di condividerlo. Perfetto, allora io intanto vi ringrazio per essere stati con noi e vi chiederei ancora di ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici chi può partecipare a questo progetto e come fare appunto per mandarvi i contributi video. Possono partecipare tutti e la buona riuscita del progetto dipenderà dal materiale che ci invieranno. E appunto vorremmo invitare a partecipare chiunque, di qualunque fascia di età o sociale, chi sta vivendo con occhi esterni il tutto o chi ha contratto il virus o chi lavora per contrastarlo. Ci piacerebbe anche dare spazio a chi sta trovando nella segregazione forzata un incentivo a sviluppare la propria creatività, inerente a qualunque ambito artistico. Ad esempio canzoni che potranno far parte della colonna sonora o dipinti che potranno andare a comporre la locandina. Il materiale ce lo potete inviare tramite WeTransfer a quarantena.doc@gmail.com, allegando anche la liberatoria per i diritti d'immagine o i diritti d'autore che potete trovare sulla pagina Facebook del progetto Quarantena Documentario Collettivo.